Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Dimmi come si fa ad uscire di qua, da questo cortile della zona industriale. Se pianti un seme che diventa un grande albero, ci puoi salire e ti sembra un superattico. Al giardino di Radio 24, buona domenica anche da parte mia. Una donna, Nina Zilli, a inaugurare questa puntata dell'8 marzo. Auguri a tutte le ascoltatrici. Non parleremo però di mimose, anche se io una in vasetto sulla scrivania redazione col suo delizioso profumo ce l'ho. No, credo sia più utile in questi strani e incerti tempi consigliare una bella immersione nella natura. Non occorre andare in campagna o in montagna, bastano un parco o un giardino pubblico, di quelli che ci sono in ogni comune, anche quelli delle zone rosse, a cui va il nostro pensiero e il nostro abbraccio. Andare in natura, stare in mezzo agli alberi, non solo ci permette di svagarci e di ammirare le fioriture di primavera, ma anche di migliorare il nostro stato psicofisico. Anche fisico, perché i giganti della natura, i grandi alberi, emettono sostanze volatili benefiche e non solo, anche campi elettromagnetici positivi per la nostra salute, come è stato dimostrato scientificamente. Ma come approcciare la natura per poterne godere al meglio gli effetti? Ce lo sta per spiegare Marco Nieri, bioricercatore, esperto in ecodesign e salute dell'ambiente, che nei boschi e nelle foreste, oltre che studi scientifici, conduce visite guidate. Tra l'altro su questo ha anche scritto un libro, La terapia segreta degli alberi. Marco Nieri, bentornato al Giardino Segreto. Buongiorno, buongiorno. Beh sì, diciamo la natura è una grande terapeuta, per chiamarla così. Ce l'abbiamo nei geni, quindi non possiamo dimenticarci di stare in contatto con la natura, anche se oggi siamo sempre più presi dalla nostra vita tecnologica, dai nostri impegni e purtroppo questo sta creando un sacco di problemi, tipo il tecnostress ad esempio. Ma la natura è una grande guaritrice, quindi quando noi ci avviciniamo alla natura possiamo goderne effetti in diversi modi, dobbiamo imparare anche come godere al meglio di questi benefici e possiamo quindi ottenere grandi vantaggi sia psicologici che a livello fisico. Allora, andarci a fare una passeggiata nel parco o nel bosco, vabbè, non può che portarci benefici psicologici, ci fa calare l'ansia, ci fa star meglio. Lei però organizza in natura delle passeggiate che sono in qualche modo diverse, si chiamano forest bathing, ma non soltanto, sì. Lei fa una sorta di visita guidata nel bosco, come se ci fossero alberi più benefici di altri. Certamente, la natura ci aiuta da più punti di vista. Dal punto di vista, per esempio, della frequentazione dei boschi, delle foreste, anche dei giardini, possiamo provare a tenere beneficio, ad esempio, attraverso questa tecnica che si chiama forest bathing, cioè bagno di foresta. È una tecnica che è nata in Giappone negli anni 80 del secolo scorso. Poi è stata perfezionata con degli studi scientifici che hanno messo in evidenza che c'è un effetto notevole a livello di sistema nervoso, di livello di stress, a livello di diabete, a livello di sistema cardiocircolatorio e tanti altri organi, funzioni del corpo umano, c'è un notevole effetto favorevole nel frequentare boschi e foreste in un certo modo. Cioè non semplicemente camminando e tenendo in mano un cellulare e occupandosi di rispondere alle mail, ma camminando delicatamente, dolcemente, fermandosi, godendo appieno dei benefici della natura, ma anche delle sensazioni che la natura ci offre. Quindi facendo delle immersioni di tipo sensoriale, che sono proprio quelle che io cerco di proporre alle persone quando si fanno questi incontri di forest bathing. Ma i benefici vengono anche dagli alberi proprio perché emettono delle sostanze benefiche volatili, chiamate monoterpeni, e noi abbiamo scritto in un libro che si chiama La terapia segreta degli alberi, quali sono gli alberi più benefici da questo punto di vista. Marco Nieri, ci dica i nomi degli alberi che a livello chimico ci fanno bene attraverso le sostanze volatili. Certo. Studi hanno evidenziato che queste miscele di sostanze volatili le possiamo trovare per esempio passeggiando pensando in una faggeta che è un fortissimo emettitore di sostanze volatili, anche se non hanno odore per noi, oppure in una lecceta, oppure in una foresta, un bosco di castagni, ad esempio, ovviamente sempre quando gli alberi hanno le foglie, perché sono le foglie che emettono principalmente queste sostanze. Oppure, beh, tra poco le foglie arriveranno. Arrivano, stanno arrivando. Quindi faggi, lecci, castagni, poi? Poi possiamo anche andare, sì, nelle conifere, possiamo anche entrare in un bosco di abeti, un bosco di pini, ecco il pino marittimo, i pini che conosciamo sulle nostre coste sono fantastici, i pini domestici, i pini marittimi, quindi le grandi pinete costiere italiane fanno benissimo. L'importante è che noi stiamo sotto le piume degli alberi, perché queste sostanze volatili vengono disperse nell'aria, sono molto leggere, quindi stando sotto la chioma noi possiamo stare in una sorta di cabina che è ricca di queste sostanze chimiche che fanno molto molto bene ai vari organi del corpo umano, tra cui appunto il sistema immunitario, di cui gli studi ci dicono che è il principale organo beneficiato da questa inalazione. Ad esempio l'aumento delle cellule natural killer del sistema immunitario dopo un certo numero di ore di inalazione, quindi più ci stiamo meglio è. Ha detto niente, il sistema, cioè io pensavo facesse bene alla nostra psiche, alle nostre emozioni, invece niente meno che al sistema immunitario, che noi dobbiamo avere assolutamente forte. Ma adesso assolutamente è un momento buono per andare nei boschi. Beh, adesso certamente queste cellule natural killer sono molto conosciute, potenti per contrastare virus e batteri e cellule tumorali, quindi assolutamente andare nei boschi, fare bagni di foresta, mettersi a passeggiare sotto alberi che hanno una forte emissione, per esempio adesso i lecci, i pini hanno le foglie comunque, andare in una bella giornata di sole, un po' calda, un po' tiepida, passeggiare a lungo, diciamo alcune ore, ma in maniera delicata sotto questi alberi può comportare effettivamente un aumento di queste difese immunitarie, che se poi ripetiamo le passeggiate per due o tre volte, diciamo a distanza proprio di poche ore, questo permette al nostro organismo di avere un beneficio più duraturo, che può arrivare anche fino a un mese, con un incremento del 50% della potenzialità. Quindi non è una cosa da poco, sono studi scientifici. E ecco, sottolineiamo che non stiamo parlando di magia, No, no, no. Sono studi scientifici, cioè queste sostanze vengono emesse, le piante del resto regalano sostanze benefiche. Settimana scorsa abbiamo parlato delle erbe aromatiche comunissime che abbiamo sul balcone, la salvia, il timo, il rosmarino, persino quelle, le aromatiche, no? Hanno dei benefici meravigliosi, annusiamole, prendiamo gli oli essenziali, per cui sono cose ormai riconosciute da tempo. Non c'è niente di miracoloso, nulla di miracoloso, ma senz'altro nulla di controindicato, anzi. Assolutamente no, anzi abbiamo solo da imparare in questo nuovo contatto, e più ci stiamo e più riusciamo a capire che la natura non può che farci bene. Dall'altro punto di vista c'è anche uno studio che ho portato avanti ormai da più di 20 anni che riguarda l'effetto elettromagnetico degli alberi, cioè come gli alberi riescono a interagire con il nostro organismo e i nostri organi proprio grazie a questi delicatissimi, debolissimi campi elettromagnetici che noi possiamo assimilare sia toccandoli e quindi appoggiandoci agli alberi o abbracciandoli se ci piace farlo, ma anche in certi casi misurando come questa emissione elettromagnetica degli alberi può arrivare fino anche a 10-20 metri di distanza, purché ci siano delle particolari condizioni elettromagnetiche del sito dove gli alberi si trovano. Questa è una tecnica che io ho chiamato Bioenergetic Landscape. Come l'ha chiamata? Si chiama Bioenergetic Landscape. È una tecnica che io utilizzo anche per realizzare giardini terapeutici che vengono utilizzati anche in strutture sanitarie, dove le persone si possono sedere o rilassare in luoghi che fanno particolarmente bene diversi organi del corpo umano, come hanno dimostrato anche le indagini diagnostiche che abbiamo fatto. Quindi nel bosco, nel giardino, nello spazio verde che abbiamo a disposizione, che possiamo frequentare, ricordiamoci di avere un atteggiamento aperto, curioso, avviciniamoci agli alberi, avviciniamoci alle foglie, avviciniamoci ai fiori, cerchiamo di entrare in contatto sensoriale, cogliamo questo tempo nel quale noi stiamo in contatto con la natura per rilassare il nostro organismo, ricevendo poi anche dagli alberi dei benefici che sono sia a livello chimico, quindi con sostanze volatili, ma anche con campi elettromagnetici molto preziosi che tutti quanti sostengono il nostro benessere. Senta, invece qualcuno dice, ma io non abbraccio gli alberi perché loro non hanno questo modo di rapportarsi tra loro, no? L'abbracciarsi è una cosa soltanto umana, noi umanizziamo tutto, per cui abbracciare gli alberi ha poco senso. Lei cosa dice? No, io dico che ha un grande senso. Allora, intanto, in tutte le culture antiche e in tutte le culture comunque che hanno a che fare con la natura, che sono strettamente legate alla natura, come in Amazzonia, l'abbracciare l'albero non è un gesto formale, è un gesto che ci ricollega alla salute. È stato sempre riconosciuto che abbracciare gli alberi porta energia all'organismo. Ora, gli studi che ho portato avanti in particolare hanno dimostrato questo, cioè il contatto fisico con l'albero, che sia l'abbraccio o che sia il fatto che noi ci appoggiamo semplicemente con la schiena a leggere un libro seduti per terra, il contatto fisico con un albero ci mette in contatto reale con dei campi elettromagnetici emessi dagli alberi. Questi campi elettromagnetici hanno anche la caratteristica, per la maggior parte degli alberi, di essere molto molto benefici, cioè quindi hanno, diciamo così, entrano in risonanza, per usare un linguaggio tecnico, con i nostri organi e generano un effetto favorevole di risposta nella funzionalità dei nostri organi. Tutti gli alberi quindi anche un albero che ho nel mio piccolo giardino di città può regalare questi effetti? Certamente, tutti gli alberi emettono questi campi elettromagnetici, in misura maggiore quanto più in genere l'albero è ampio, è grosso, è il tronco è sviluppato. Ovviamente anche un piccolo albero per contatto fisico emette questi campi elettromagnetici e li trasmette all'organismo, quindi diciamo il nostro organismo riceve questi campi elettromagnetici come se fossero trasmessi da una radio emittente, da una radio sulla quale noi siamo sintonizzati, per usare una metafora. Quindi i nostri organi, se l'emissione è buona, cioè se l'albero emette campi elettromagnetici favorevoli, il nostro organismo li riceve e li percepisce come una, diciamo, usare una parola medicina mi sembra molto, però vorrei usarla, è una forma di sostegno di tipo elettromagnetico che permette ai vari organi di funzionare meglio, di avere delle attivazioni più rapide. Ad esempio, io con i vari apparecchi diagnostici che abbiamo utilizzato per dimostrare tutto questo, ho visto lo stress, il fenomeno dello stress è una cosa anche quella che si riduce nelle misurazioni fatte di oltre il 50% in pochi minuti come effetto elettromagnetico, cioè l'organismo umano a quel punto comincia a funzionare meglio, cioè emette dei campi elettromagnetici che danno il segnale della ripresa del benessere. Quindi è straordinaria anche questa scoperta, per la quale io sto adesso creando un comitato scientifico internazionale per portare avanti ulteriormente questi studi. È per questo che è a Londra? Non per farmi i fatti suoi, eh? No, sono a Londra per fare un giardino terapeutico usando questi principi. Perché lei fa anche questo. Lei fa delle visite guidate, per esempio, in un'oasi Zegna in Piemonte? Sì, faccio visite guidate, l'oasi Zegna, adesso dovrebbe aprire anche un altro parco a Pai della Paganella, sopra Trento, il Bosco del Respiro. Faccio visite guidate, mettendosi in contatto con me, si può organizzare una visita o anche un ritiro di diversi giorni, anche lezioni all'aperto, che riguardano proprio questi benefici che possiamo ottenere dalla natura da più punti di vista. In questo momento così particolare c'è una direttiva nazionale a non darsi la mano, a non abbracciarsi, a non darsi i baci sulle guance. Gli alberi si possono abbracciare liberamente e non ci chiedono neanche di metterci la mascherina. No, assolutamente no. No, siamo in perfetta comunione con gli alberi, dobbiamo riscoprire il valore che hanno da tanti punti di vista, per la verità anche dal punto di vista dell'inquinamento eccetera, però dal punto di vista dell'effetto diretto degli alberi noi siamo davanti a degli esseri viventi che misteriosamente ancora per certi versi riescono a elargire dei regali all'umanità di cui ancora non siamo completamente consapevoli. Lo chiederemo agli alberi restare immobili fra temporali e fulmini invincibili. La terapia segreta degli alberi è il libro scritto da Marco Nieri insieme a Marco Mencagli, Sperlin e Kupfer editore, se volete approfondire, e c'è anche un sito www.marconieri.com. Ci sentiamo tra poco, resteremo all'aria aperta, questa volta in mezzo ai fiori. Il giardino segreto. Dentro un mare di tulipani vorrei fare bracciate di meraviglia. Fabrizio Caramagna. Seconda parte del giardino segreto. Restiamo all'aria aperta, in mezzo alla natura. È quasi primavera, le fioriture sono dappertutto. Ci accompagna ad ammirarle una guida d'eccezione, Mimma Pallavicini, giornalista e scrittrice green, nonché esperta giardiniera. Bentornata al giardino segreto. Buongiorno a tutti, lieta di trovarvi e di potervi raccontare i fiori di inizio primavera. Abbiamo voglia, abbiamo proprio bisogno, io direi, di colori e di profumi e di fioriture nuove. E questo è il momento, nonostante tutto. Certo, allora incominciare dalle camelie, è il momento di vederle lustrarsi gli occhi in alcuni posti d'Italia dove davvero se ne possono vedere tante e di bellissime, e anche in posti che vale la pena di visitare. Andare per camelie vuol dire innanzitutto andare per le antiche camelie della Lucchesia. Da tantissimo tempo si onora questo fiore, e anche in gran bel modo, perché fin dall'Ottocento che si coltivano in zona, essendoci terreno acido, si coltivano Lucchesia. Per esempio andare a vedere la Villa Reale di Marlia, che nelle mani del nuovo proprietario è ritornata al massimo dello splendore. È veramente bella, c'è una luce in Lucchesia straordinaria, lo so e lo dico a ragion veduta, perché poi all'inizio di aprile io collaboro a una manifestazione di giardinaggio che si chiama Verde Mura, sulle mura di Lucca. Tutti gli anni torno a casa e ci penso, c'è una luce nell'aria che è speciale, non lo so per quale motivo. A Lucca a settembre c'è Murabilia, quindi c'è differenza di luce tra questo periodo? Assolutamente tantissimo, ma una è proprio una luce primaverile, azzurra, trasparente, leggera. Dicono che è anche per un'aria che tira dal mare verso l'interno, che probabilmente mantiene pulito. Vale veramente la pena. Camelie. Invece vuole rimanere a nord, a Oggebbio, in provincia di Verbania, c'è da vedere un altro, di nuovo, un giardino privato con una collezione storica di varietà di camelie, 400 tra specie e varietà, quindi una passeggiata una domenica pomeriggio, andare magari a pranzo sul lago, poi andarsele a vedere, bellissimo. Mimma, tu hai camelie nel tuo giardino? Camelie non ne ho. Incredibile, ho trovato una mancanza. Sì. Ma in realtà c'era un motivo, ma il cambio climatico si fa sentire anche in queste cose, perché la camelia, se prende l'acqua, qui piove, in primavera pioveva una volta tantissimo dalle mie parti, sulle Prealpi piemontesi, quindi si macchiavano tutte, diventavano marroncine, erano brutte da vedere. Allora non ho mai pensato di metterle. In realtà adesso con i cambi climatici non vediamo più una goccia d'acqua adesso, e quindi adesso potrei anche metterla. Vedi? Comunque la camelia è una pianta che consiglio davvero anche a chi vive in città e anche chi ha un terrazzino piccolo in ombra, che dice non ci viene niente. Non è vero, una camelia viene, e per dire in mezzo a Milano ci verrebbe benissimo in vaso una camelia sasanqua, che sono quelle che fioriscono già a partire dal novembre, vanno avanti novembre, dicembre, gennaio, i mesi centrali dell'inverno. Quelle, se sono in una posizione ombrosa o con poco sole comunque e un po' protetta, fioriscono ed è un bel vedere, insomma, d'inverno, no? Camelia sasanqua, per avere fioriture anche in inverno, anche in città, anche nei nostri anche balconi, un pochino stretti tra altri condomini, quindi un po' ombrosi, la camelia viene. Sì, ma non solo, c'è possibilità di mettergli il terriccio acido, come piace alle camelie, mentre invece tanti terreni in piena terra non sono adatti perché contengono calcare. Non dirmi che invece hai già i tulipani, no? I tulipani, oh, stamattina li ho visti, sì, certo, sono tulipani botanici, ma ho già i tulipani. Tant'è vero che ci sono posti in giro per l'Italia dove si possono vedere in grande stile davvero. Uno classico è Pralormo, in un castello di epoca savoiarda, comunque, Pralormo, che è in provincia di Torino, dove c'è una fioritura, a perdita d'occhio, di tulipani e narcisi. Tenuto bene, c'è la cura, c'è il piacere, non so, di offrire la ciotola d'acqua per il tuo cane, posto dove puoi fare un po' di shopping comperandoti delle cosine strane di piante, eccetera. Messer Tulipano si chiama, quello di Pralormo. Messer Tulipano, quella, a Pralormo, provincia di Torino. Senti, in queste manifestazioni quindi possiamo anche acquistarli i bulbi, dovremmo scegliere quelli adatti ai vasi di città. Ma Ma no, tutti. Crescono tutti bene in vaso, sì. Diciamo che non è il momento per i tulipani, bisogna aspettare l'autunno. Se li acquistiamo ora possiamo conservarli e poi metterli... Se li conservi fioriti adesso, sì, certo. Bisogna lasciare che si sviluppino completamente le foglie e quindi non saranno più tanto belli da vedere, lasciare che poi secchino le foglie. E quando è completamente secco si piglia il vaso, lo si dimentica, lo si mette in cantina fino all'autunno. Più stanno all'asciutto, più è probabile che rifioriscano l'anno dopo. È importante tenere le foglie fino all'ultimo, anche se non sono bellissime, perché il bulbo si nutre attraverso di loro. Eh sì, certo, facendo la fotosintesi la foglia raccoglie energia che convoglia il bulbo, però bisogna lasciarli all'asciutto d'estate, perché essendo originari della Turchia, di paesi del Medio Oriente caldi, d'estate devono proprio stare all'asciutto. Se uno li lascia in piena terra e poi continua a bagnare tutta l'estate per dare acqua ai fiori stagionali e quello che ha, non fioriscono più, non ce la fanno. A marzo si può cominciare a mettere qualche bulbo di gladiolo anche in balcone, costano pochissimo tra l'altro i bulbi di gladiolo. Se è sempre il solito balconcino o anche il davanzale di città in ombra, comprate i ciclamini, i bulbi dei ciclamini. Ecco, questi sono tutti bulbi o sedicenti bulbi, in realtà ci sono i tuberi, ci sono i rizomi, anche cose diverse. La natura molta fantasia. Sì. Sono appunto organi di riserva, con questo possiamo definirli tutti, bulbi, rizomi, certo. Possiamo dire che immagazzinano energia. Certo, proprio, esattamente così, e attraverso la fotosintesi, che è la fabbrica dell'energia delle piante, no? Elaborano zuccheri, gli zuccheri vanno dentro lì, gonfiano questi organi sotterranei che diventano organi di riserva. Possiamo pensare a queste parole quando andremo per esempio a Messer Tulipano, a Pralormo, a vedere i tulipani, o certo. A Sigurtà, o insomma in molti, molti, certo. Moltissimi altri anche luoghi d'Italia. Le mostre di giardinaggio cominciano a essercene di divertenti, per dire, a tema c'è Primavera Fruttuosa in un paesino piccolo dell'Appennino che da Alessandria, da Acqui Terme, va verso la Liguria. Si fa una festa Primavera Fruttuosa che è legata al mondo della frutta, con della gente persino internazionale, e non si sa perché, è un piccolo paese così, nessuno paga niente, cioè non ci sono biglietti d'ingresso, non pagano gli espositori, è un'atmosfera veramente straordinaria. E questa è l'atmosfera di Cartosio. Cartosio, 15 marzo. Consigliato da Mimma Pallavicini. Sì, ci vado anch'io. Mimma, noi stiamo esaurendo il tempo a nostra disposizione, hai altri consigli? Sì, di andare a Orti Mantovani il 21 e il 22 marzo, e in mezzo ai Giardini Valentini, in mezzo a Mantova, città patrimonio dell'umanità UNESCO, all'interno di questa manifestazione succedono tante belle cose anche creative. Questo a Mantova, in Lombardia, è una delle regioni che sta subendo chiusure, limitazioni. Invece di questi giorni sul giornale di Mantova è uscito con un titolo grande: Orti Mantovani non ha paura, che è un bel modo di dare un segnale che il mondo va avanti, che tutti dobbiamo andare avanti, la primavera cancellerà il brutto di questo mese di febbraio appena passato. Prendiamo a dare in natura, ci fa bene andare a passeggiare nei parchi, ce ne sono in tutte le città, nei giardini, ci fa bene andare a queste manifestazioni floreali, a respirare il profumo della primavera. Ed è un messaggio di speranza e di futuro, no? Le piante sono quelle che ci hanno nutriti fino adesso e hanno nutrito anche i nostri occhi e il nostro senso della bellezza, e lo faranno ancora. Grazie Mimma Pallavicini. A te. I fiori hanno un'influenza misteriosa e sottile sui sentimenti, come certe melodie musicali. Rilassano la tensione della mente, dissolvono in un attimo la sua rigidità. Henry W. Beecher. Rilassatevi riascoltando le puntate del Giardino Segreto. Sono tutte disponibili al sito di Radio 24. Per riascoltarle basta cliccare su www.radio24.it e poi tra i programmi selezionare il Giardino Segreto, e poi ci sono le piattaforme podcast, per cui mi trovate facilmente anche attraverso Google. Vi aspetto domenica prossima sempre a metà pomeriggio alle 15:30. Grazie ad Andrea Roccabella che ha curato la regia. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.